Animal Equality è un'associazione internazionale che si occupa della protezione di animali allevati a scopo alimentare, quindi ci occupiamo di far passare informazioni, far conoscere alle persone quello che succede all'interno dell'industria alimentare, ci occupiamo anche di intrattenere rapporti con le aziende affinché migliorino i loro standard di benessere alimentare e poi anche di intrattenere rapporti con le istituzioni affinché le leggi migliorino in favore degli animali che sono appunto allevati a scopo alimentare. E ho visto anche sul vostro sito che avete diverse campagne, oggi parliamo in particolare di quella contro il nutrimento forzato. Assolutamente sì, che riguarda anatre e oche soprattutto per la produzione di foie gras, e questo è un tema decisamente molto importante perché è poco conosciuto peraltro. Non tutti infatti sanno che proprio per la produzione di foie gras in 5 paesi di Europa, perché negli altri paesi è vietato, in 5 paesi di Europa tra cui Spagna, Francia, Ungheria, parte del Belgio, viene utilizzata la cosiddetta alimentazione forzata, e cioè viene infilato un tubo di circa 30 cm all'interno della gola di anatre oche affinché si possa inserire all'interno direttamente dello stomaco una quantità enorme di cibo che anatre oche non mangerebbero mai in natura, tanto che in pochi giorni possono passare anche da 4 a 7 kg di peso dell'animale, e questo serve affinché il fegato si ingrassi, diventi malato, perché poi si tratta proprio di arrivare ad una steatosi epatica, e a quel punto il fegato viene venduto sul mercato con il nome di foie gras, come se fosse una prelibatezza, ma in realtà è il fegato malato di anatre e oche, e proviene appunto da questa terribile tortura che viene perpetrata ai loro danni. Tu citavi i paesi europei, in Italia questa pratica è consentita? In Italia è vietata e a partire dal 2007 non si può più praticare, tuttavia siccome possiamo importare dall'estero, ovviamente il foie gras può essere venduto e quindi utilizzato e consumato. Infatti, soprattutto sotto le feste natalizie, ci sono dei ristoranti o magari anche dei privati che lo acquistano e lo consumano. Quindi è anche per questa ragione che anche il pubblico italiano va sensibilizzato. Assolutamente sì, proprio perché non si conosce quello che c'è dietro, e appunto anche se in Italia per fortuna è vietato e quindi non si produce con questa metodologia, però quello che poi viene acquistato potrebbe essere prodotto con questa metodologia. Quindi insomma un accanimento, come dire, un maltrattamento degli animali. Come si fa a partecipare alla vostra campagna? Allora, sicuramente c'è l'opportunità di firmare la petizione online che è all'interno del nostro sito, basta digitare Animal Equality foie gras stop alimentazione forzata su qualsiasi motore di ricerca, si arriva direttamente alla petizione, si firma in maniera molto veloce, richiede davvero pochi secondi, e si può appunto partecipare alla campagna, dimostrare il proprio interesse affinché questa pratica venga effettivamente terminata, e noi ovviamente porteremo la voce di tutti questi cittadini all'interno delle istituzioni, perché stiamo cercando di far intervenire il nostro governo in Europa affinché anche l'Europa finalmente decida di vietare l'alimentazione forzata. Negli ultimi tempi, a tuo avviso, sta aumentando nei cittadini, nelle cittadine, come dire, l'attenzione verso il benessere animale, e quindi appunto anche un orientamento nei propri stili alimentari che non sia frutto di sfruttamento e di sofferenza animale? Io direi assolutamente di sì, ce lo dimostra il fatto che moltissime aziende hanno deciso di commercializzare prodotti 100% vegetali, quindi aziende anche che magari non sono nate come aziende di questo tipo, ma vendono tranquillamente prodotti a base di carne e di pesce, hanno inserito delle linee proprio specifiche 100% vegetali. Inoltre, anche a livello di sensibilizzazione e di percezione, questa cosa è molto evidente ed è stata certificata dai risultati dell'ultimo Eurobarometro della Commissione europea, che mostra come la maggioranza dei cittadini europei, che si attesta intorno all'84%, ed è ancora più alta per gli italiani perché parliamo dell'88%, chiede proprio che il benessere degli animali allevati a scopo alimentare sia più tutelato all'interno dei propri paesi.